Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutte e tutti e bentornati su Liberi Dentro ed Uradio. Oggi è venerdì 9 luglio e io sono sempre Caterina alla cura e alla conduzione di questo programma insieme ad Antonella Cortese. Buongiorno Antonella. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutte e tutti. Siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV canale 118 e intanto vi ricordo anche di andare sulla pagina www.ideaginger.it per sostenere il nostro crowdfunding che è partito il 1° luglio e durerà tutto il mese e permetterci così di coprire i mesi estivi e portare ancora un po' la nostra animazione, la nostra voce, il nostro programma all'interno delle carceri dell'Emilia Romagna. Potete sostenere noi, potete sostenere con noi tutte le associazioni di volontariato, scuola, enti culturali, teatrali che si adoperano con noi dall'inizio dell'anno, dal 18 di gennaio, quindi potete sostenerci sulla pagina di ideagender.it e cercare il progetto Eduradio e TV. Ma ora partiamo con le nostre notizie, la relazione al Parlamento del Garante Nazionale Mauro Palma. Nel suo intervento, il 21 giugno scorso, Palma ha riassunto i punti principali delle oltre 400 pagine della relazione consegnata ai Presidenti delle Camere. E ovviamente ha rivolto il saluto iniziale ai Presidenti della Camera Roberto Fico e ha chiuso i lavori la Ministra della Giustizia Marta Cartabia e nel suo intervento Mauro Palma, che lo ricordiamo è il garante nazionale dei diritti delle persone prive della libertà personale, ha riassunto i punti principali della sua relazione, affrontando diversi ambiti, pensa dalla detenzione penale a quella amministrativa delle persone migranti, dalla privazione della libertà in ambito sanitario, alla custodia nei luoghi delle forze di polizia, fino ad arrivare alla possibile perdita di autodeterminazione di persone anziane o disabili ospiti in residenze sanitarie e assistenziali. Ci sono tanti temi e tante situazioni insieme, ma c'è un filo conduttore che tiene unite tutte queste cose così diverse tra loro? Eh sì, per il garante il filo è il rischio di una minore effettività dei diritti delle persone ristrette e proprio per questo è necessaria un'azione del garante che entri, veda, esamini le situazioni e intervenga per cooperare al superamento delle criticità riscontrate. Il punto centrale è per il garante l'individuazione vera e propria quale diritto soggettivo di ogni persona priva della libertà del reale perseguimento dell'obiettivo in base al quale la sua situazione di restrizione è determinata. Un diritto, come indica anche la nostra Costituzione, che si accompagna alla necessità che il tempo di collocazione in strutture di privazione della libertà personale non sia soltanto tempo sottratto alla vita. Questo vale anche, lo ricordo, per la persona temporaneamente ristretta in una struttura per un trattamento psichiatrico non volontario, perché dice il garante questa persona deve vedere azioni effettive tese al superamento di questa condizione, così come anche nel caso dei centri per il rimpatrio, cosiddetti CIPR, dove le persone migranti irregolari hanno comunque il diritto di un impiego significativo del loro tempo, anche se sono in attesa del rimpatrio. Caterina, hai detto più volte la parola tempo, che nella detenzione in carcere è una parola veramente fondamentale. C'è ancora molto da fare per dare significato al tempo di chi è recluso? C'è ancora molto da fare, come dice il garante stesso, ed è per questo è necessario un vero e proprio cambio di prospettiva. Occorre, ha detto Palma, porsi con forza il problema del domani e del fuori anche, superando una visione solo concentrata sull'oggi e sul dentro, quindi il dentro i posti di reclusione. Per esempio, lui dice, riguardo all'ambito della salute, una particolare attenzione è stata rivolta alle residenze per persone anziane o disabili che in Italia portano a un totale di più di 360.000 posti letto. Sono strutture che rischiano, e questo l'ha dimostrato la pandemia, di diventare luoghi di internamento, in cui le persone sono private della loro autodeterminazione. E poi anche rispetto al tema complesso delle migrazioni irregolari, di cui si sente parlare sempre più spesso, soprattutto in questi mesi, nei mesi estivi, la richiesta del garante al Parlamento è di trovare la capacità di affrontare in modo meno contingente ed emergenziale, ripensando proprio il modello stesso delle CPR. Infine, un altro tema su cui lui tiene molto e ha molto viva l'attenzione è quello dell'accountability, ovvero la necessità di trasparenza per chi opera all'interno dei luoghi di privazione della libertà personale e di rispondere in modo anche documentato alla propria azione. Quindi lui ha cercato il garante di sollecitare le procure e indagare su quanto viene anche riferito da più fonti sul lavoro delle persone che operano all'interno delle strutture di reclusione. In conclusione, nella sua azione di vigilanza e di sguardo, il garante ha cercato non tanto di fermarsi sulla mera analisi della legalità, formale dei singoli provvedimenti, ma di guardare alla legittimità sostanziale, quindi alla base, ecco, di ciò che i provvedimenti legislativi determinano sulle persone prive della libertà personale. Caterina, oggi ci lanci una bella voce femminile. Sì, concludiamo con una donna, lei è Nina Simone, lanciamo How It Feels to Be Free, che significa vorrei sapere cosa si proverebbe ad essere libera, un capolavoro vero e proprio scritto da Billy Taylor e reso famoso grazie alla sua magnifica interpretazione nel 1967. Ascoltiamola. Rieccoci, bentornati sulle note di Nina Simone. Antonella, noi tutte le settimane abbiamo un animale del giorno, questa volta di chi ci parli? Parliamo di un animale che avevamo già trattato, ma in modo diverso, cioè i leoni e i leoni sudafricani. C'entra addirittura la pandemia, Caterina, in questo discorso che vi farò oggi, perché si può dire che tra i tanti disastri della pandemia da Covid-19, che conosciamo ormai tanto bene, emerge però anche qualche bella notizia per la conservazione dei leoni sudafricani, grazie proprio alle nuove considerazioni in nome della salute e della sicurezza pubblica. Infatti, tra queste, negli ultimi mesi si è messo l'accento sui possibili rischi collegati all'interazione e anche al consumo di carne di animali appartenenti a specie selvatiche. Questo poiché, come sappiamo, il Covid-19 è una zoonosi, cioè malattie infettive causate da batteri, parassiti o virus che possono trasmettersi tra mammiferi e persone, come per esempio la SARS, la MERS, l'Ebola e la SARS-CoV-2. E quindi, nell'ottica di evitare nuovi focolai infettivi, i governi di tutto il mondo stanno mettendo in atto programmi di prevenzione, tra cui il divieto del contatto tra l'essere umano e gli animali selvatici. Sicuramente una funzionale forma di prevenzione a livello sanitario, ma anche una grande battaglia vinta per il benessere animale e soprattutto la sua conservazione. Mi chiedo se sono state prese delle posizioni ufficiali in qualche modo. Negli ultimi mesi, infatti, il Sudafrica, grazie alla ministra dell'Ambiente Barbara Krisi, ha vietato ufficialmente l'allevamento dei leoni con finalità venatorie e i falsi santuari in cui era possibile coccolare i leoncini. Nel paese oltre 350 strutture allevavano grandi felini autoctoni o esotici, per scopi turistici o venatori, e molte di queste utilizzavano gli animali come attrazione turistica, spacciandoli peraltro per recuperati da situazioni di difficoltà, quando in realtà erano allevati di proposito. E infatti, in questi falsi centri di recupero, gli animali venivano trattati come mascotte da far coccolare ai turisti. Però ci dobbiamo ricordare una cosa fondamentale, che se l'animale fosse davvero recuperato, l'ultima cosa che si deve fare è portarlo a interagire con l'essere umano come fosse un cagnolino. Le strutture realmente valide dal punto di vista etico e scientifico sono quelle che impediscono ogni forma di interazione. Ad esempio, toccare o stare a stretto contatto. Tu sai che se un animale selvatico è toccato da un essere umano, viene escluso dal branco. E quindi bisogna tentare di evitare al massimo questo tipo di contatto proprio per un eventuale rilascio in natura. In Sudafrica tutto questo era legale fino al mese scorso, con un giro d'affari di milioni e milioni di dollari generato da varie attività molto redditizie e dai volontari che allattavano i leoncini credendo fossero orfani, oppure alle abominevoli walking lions in cui il turista poteva passeggiare a fianco di giovani leoni, credendo che tutto questo fosse parte di un progetto di conservazione. Fino alla famosa canid hunting, in cui le femmine adulte venivano utilizzate per la riproduzione a ritmi di 10 volte superiori a quelli naturali, mentre i maschi venivano liberati in piccolissime riserve per essere uccisi dai turisti di caccia al trofeo. E molto spesso turisti inesperti che non avrebbero mai ucciso neanche un leone all'aperto o comunque in natura. Comunque il ciclo di vita del leone terminava con la vendita di ossa sul mercato della medicina tradizionale, per dirti. Tuttavia la caccia ai leoni purtroppo non sarà vietata, in quanto possono essere cacciati allo stato selvatico in natura. Però comunque è un passo avanti. C'è un'altra cosa che non hai menzionato e che comunque c'è da molto tempo ed è preoccupante, ed è quello della caccia ai trofei. Sì, infatti questo è un problema grosso. Ti voglio soltanto dire che l'analisi dei dati di CITES, cioè la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, ha dimostrato che tra il 2014 e il 2018 il Sudafrica ha esportato 574 trofei di leopardo africano e il 98% di questi animali è stato cacciato in natura, mentre il 2% è stato allevato in cattività. Inoltre sono stati esportati anche 1337 trofei di elefante africano e 21 trofei di rinoceronte nero. Insomma, la strada è lunga e difficile, dovremo imparare al limite a fotografare e a guardare da lontano gli animali, piuttosto che fare i turisti che si vogliono avvicinare troppo, addirittura che vogliono avere i trofei. Parole sagge, Antonella, ricordiamocelo. E intanto il tuo stacco virtuoso e poi la musica? Sì, anche oggi lo stacco virtuoso, l'ultimo della settimana, e poi vi voglio far ascoltare un pezzo molto particolare, sempre di Angélique Kidjo con l'UNICEF, la famosa Pata Pata, che era la canzone di simbolo di Miriam Makeba, Mamma Africa, vi ricordate, la famosissima, e riproposta da Angélique durante la pandemia. Ha cambiato dei pezzi della canzone e parla del Covid e dice: il Covid lo dobbiamo distruggere noi con i nostri comportamenti corretti, che poi elenca nella canzone. Ascoltiamola. Liberi Dentro e Duradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia-Romagna. Fronte Comune abbiamo coinvolto tante associazioni di giovani da Faenza e non solo per portare ad Eduradio ciò che ci piace fare. Come Teatro dell'Argine, per Eduradio abbiamo fatto incursioni di storia del teatro e lezioni teatrali. L'altro diritto, insieme a Eduradio, cercherà di portare l'informazione giuridica in carcere. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio TV. Welcome friends, I'm UNICEF Goodwill Ambassador Angélique Kidjo, and tonight we are going around the world for UNICEF One Stop. It's time to sit it out. Stay at home and wait it out. keep your distance, please. Bentornati sempre sul nostro Liberi Dentro di Radio TV. Siamo con Rosanna Sirignano, la nostra esperta formatrice di spiritualità islamica a 360 gradi proprio. Rieccoti con noi, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, proseguiamo un po' la nostra riflessione su alcuni lemmi che hanno un forte significato anche per la spiritualità e la cultura araba e islamica. La scorsa volta abbiamo parlato a proposito della parola amore, che è ricca, un nodo di significati, più di 100 le parole per definirla, ci hai raccontato, e oggi ne tocchiamo un'altra molto importante, che è dialogo. Raccontami tu, l'etimologia è un po' l'origine di questa parola nella cultura islamica. Beh sì, sicuramente prendo in prestito dall'etimologia della parola appunto italiana, che viene dal greco, non come si pensa, no? Perché a volte si pensa che venga da due, che questo dia sia due, forse per assonanza, ecco al numero due. In realtà no, dia, il prefisso dia vuol dire attraverso. E quindi logos, che appunto è la parola, è la capacità di parlare, di conversare, di comunicare, e appunto mi piace pensare, ecco, che sia un parlare ed un conversare attraverso mondi, attraverso persone, e quindi non solo tra due, perché sarebbe troppo facile, ecco, un confronto a due, ma due, tre, quattro, ma soprattutto con se stessi, perché no? Perché non è escluso che il dialogo debba partire, ecco, principalmente da noi stessi. E sicuramente, ecco, quello che ci riconduce al dialogo nella tradizione islamica, quello che ci fa pensare al dialogo, per esempio, è il dialogo che avviene tra Muhammad, il profeta che riceve la rivelazione coranica, e l'angelo Gabriele, che appunto è il tramite attraverso il quale lui riceve la rivelazione. Angelo Gabriele che per esempio annuncia a Maria, nello stesso Corano si descrive questo episodio, annuncia a Maria la nascita di Gesù, e sia il profeta che Maria rispondono al comando divino, non sono muti. Muhammad, quando gli viene detto leggi, risponde: io non sono fra coloro che leggono, quindi in qualche modo vogliono verificare quello che sta accadendo. E Maria, sicuramente episodio conosciuto anche perché comune alla religione cristiana, risponde in modo anche intelligente: ma come posso io avere un figlio se mai nessun uomo mi ha toccato? Sto parafrasando. E quindi il dialogo è questo, è non accettare passivamente. Anche la fede va costruita domandandosi, rendendoci, diciamo, consapevoli e convinti giorno per giorno. E quindi il dialogo, possiamo dire, parte da una domanda che non è dubbio, ma è curiosità, e voler approfondire, voler essere consapevoli di quello che si sta facendo. Grazie Rosanna, è già il momento di lanciare una canzone. Bene, allora lancio Orchestra di Piazza Vittorio, La ci daremo la mano. La ci daremo la mano. Là mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiamo ben mio da qui. Vorrei e non vorrei sarei, ma può burlarmi ancora. Vieni mio bel diletto, mi fa pietà ma sento. Io cangerò tua sorte, presto non son più forte, non son più forte, non son. Rieccoci, bentornati sulle note di Lacci dare la mano, questo brano famosissimo dell'opera, e sempre con te Rosanna, stiamo parlando di dialogo all'interno della sfera appunto del dialogo sulla spiritualità islamica. Però c'è questo da dire, che abbiamo vissuto un anno, quest'ultimo, un anno e mezzo di pandemia, ristretti in spazi come per alcuni è stata la casa, per altri che sono gli ascoltatori anche di questo programma, invece sono state le camere detentive del carcere. E quindi forse non è sempre stato facile condividere, come hai detto prima, anche gli spazi per il dialogo. Allora, hai dei consigli, soprattutto anche fra persone di culture diverse di appartenenza, per condividere un dialogo vero? Ecco, la musica ci viene d'aiuto, perché quello che abbiamo sentito è un brano che è frutto di un dialogo tra musicisti che vengono da diversi paesi, che suonano diversi strumenti e che hanno con sé degli stili musicali che apparentemente risulterebbero, ecco, talmente diversi da non poter stare insieme. E invece l'orchestra di Piazza Vittorio, ma se pensiamo, ecco, alla musica in senso ampio, la musica non è altro che dialogo fra strumenti, strumento che può essere anche la voce umana, cioè è armonia tra suoni molto diversi. E se ci spostiamo dalla musica alla natura, vediamo che anche la natura funziona esattamente così. Noi abbiamo una varietà di frutta, di verdura, di piante, di paesaggi che apparentemente potrebbero sembrare, ecco, incoerenti o potrebbero sembrare, ecco, talmente diversi da non poter stare insieme, invece formano un'unica armonia. E gli esseri umani sono uguali, sono diversi, la diversità è ricchezza, lo stesso Corano ci ricorda che la diversità è una creazione di Dio ed è voluta da Dio, e dice il Corano affinché vi conosciate. Quindi essere diversi è un beneficio, altrimenti diciamocelo, ma che noia, cioè se noi dovessimo parlare e confrontarci solo con persone uguali a noi sarebbe veramente una noia, e soprattutto non avremmo quella possibilità di crescere in armonia. E un consiglio, ecco, che secondo me racchiude tutto, è quello di pensare alla bellezza della diversità, ma anche di pensare che poi deriviamo tutti da un'unica origine, e questa unica origine è quella che ci tiene insieme. Ho detto origine, non Dio, perché non sto parlando in termini religiosi, ma anche, ecco, chi non ha una fede e chi non ha una religione, osservando più attentamente, secondo me può notare che l'origine è unica. Grazie Rosanna, do un'anticipazione ai nostri ascoltatori sul tema della prossima volta, parleremo di educazione, allora sarà bello confrontarci anche su questo. E lancio un brano io e lancio Ligabue, Cerca nel cuore, perché le parole alcune volte, come i significati e anche i dialoghi, vanno ricercati all'interno di se stessi. Parlami, parlami, senza dire niente, parlami, dai, cerca nel cuore, dimmelo, dimmelo. Quello che ci serve ormai più, fatti mangiare qui, fatti sentire, fammi sentire, sentirti. Io sono qui, ne son quasi certo, io sono qui, cosa ti costa? Io sono qui, te ne sei accorta, io sono qui. Parlami che non spendi niente, segnami qui senza rancore, cercami, scappami, fatti un po' sudare, toccami qui, proprio sul cuore, qui, fatti sentire come dovessi morire, stringi di più, ne son quasi. Stringi di qui, cosa ti costa? Stringi di più, te ne sei accorta? Stringi di qui, qui, qui. Ci sono treni che non ripassano, ci sono bocche da ricordare. E come ogni venerdì, i saluti dei Buongiorno di Liberi Dentro si ridanno appuntamento a lunedì prossimo, però non mancano le nostre rubriche, sempre che vi accompagnano tutto il weekend. Quindi a partire da oggi pomeriggio su Teletricolore, oppure tra poco sull'Epida TV alle 13.30, avrete la spiritualità islamica e la cultura araba, e a seguire la ginnastica da camera, e anche domani la cappellania della Dozza, poi segue Parliamo di Buddismo, e al termine la rubrica Migrazione, vita in cammino, dove avremo come ospite Marwa Mahmoud. La domenica è il CPA di Bologna, e a seguire il Teatro dell'Argine. Scriveteci a redazione liberidentro@gmail.com, oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. E con questo do il saluto anche di ringraziamento speciale al nostro montaggista Pasquale Pitaniello, che ha fatto un lavoro ottimo in questi due mesi con noi, e ringrazio sempre Antonella Cortese, sempre qui con me in regia, e ringrazio in particolare tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Sosteneteci con il crowdfunding e aiutateci a portare la nostra voce nel carcere, dal carcere e alla città, anche per il mese di agosto. Buona giornata a tutte e tutti. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.